Pillo, Master, non so perché Gio Maria c'è, ma non so, dovrebbe rientrare adesso. Ti vedo che sei in movimento, la freccia si muove e ci scende invece di salire. Io sono qua. Ok. Babbo Natale, buonasera. E ancora il pizza per il Babbo Natale. Arrivi alla fagina. Speriamo che lo tucchi, ero qua lì. Certo, mamma, come? Non si vuole pure a buccare. La faccia un po' principale, capito? Perché se bucca, se può camminare, lo si sa se arrivi, Comunque, buonasera, ben sentito. Ciao, sì. Anche a lui, buonasera. C'era Bruno, che ha parlato di battagliarsi i bambini. Non so se ce l'ha fatta a finire. C'era sceso a prendere il pane, ma chi ha famato era? Non lo so io. Ha detto, ma Pimino che scendo, mi prendo il pane e rientro subito. Questo mi ha detto. Ah, in macchina io allora? In macchina io, da parte di un sole. Ah, sempre in punti più alti va Bruno, ma in basso, sempre in alto. Cosa devo ci fare? Certo. Perché ci vuole far sentire, capito? Lui dice di essere in alto, ma in basso. E ci sono i seguiti. Sì, purtroppo siamo così. E così lo dobbiamo fare. Ah, speriamo che lo trovi questo pane. Vabbè, speriamo, se non lo mangio stanotte. Ma vedo che faccio accappare la dieta. Da voi si droga il tutto. Vabbè, pazienza. Sono così. Ma io la ciappa, ho un tipo latte, allora, ci sono tante carità, vai, vale. Per cui ho uno latte, io la ciappa, là. E per cui almeno c'era stanotte. Ma da voi dentro freddo, ma già dentro la freddo da voi, non potremmo far nulla. Attendi un motore, certo, e ci cadi, certo, se ha freddo da voi, certo, ci fa la umidità, freddo l'umidità, è l'umidità che fa più male dentro le ossa, Infatti dici. C'è umidità, faccio ma un po' di meno di ieri, ce n'è uno. E a so che cazzo, anche un cazzo sono più tranquillo. Poi in macchina, io a terra di scaldamento, per prendere in macchina e c'è un tie. Un po'. Però oggi c'è tranquillo, ma... Quindi già andare in moto, già c'è un garoto. No, ho più sentito quella che è la vita cosa, alla fine, sulla maniera di sorso, non sento più, ma non c'era caduto dalla sedia. Ah, boh, non lo so. cosa che c'è di me, dell'altro non mi ricordo nulla, non so come manco voi. C'è vivo ancora? Sì, ce ne avevo, c'è vivo. Ora da gara che sta più buio a vivere. Ed è appena sta cosa, ti rivedo. Vabbè, speriamo, si può sentire. Sono tutti in pari, dico? Adesso dove sto andando a lavorare. Oh, va bene, quindi buon lavoro. Purtroppo è così. Anche così. Come ti si chiamava, non lo sai? Cosa? Come si chiamava quello lì? Fadetta, non mi ricordo il nome proprio, Però il nome di Baracchino è Affadetta. Ma quello che c'è nella discesa adesso panda su. Da quello che c'è il portatore, vai fare sotto, c'è la fine. Il ricordo della fine. Ah, dice che andiamo con il babba, ecco. Mentre andiamo con il babba, che va a sentire ogni tanto. Infatti. Ma sei il babbo la sai del giro, boh. Purtroppo. Però mi fa, ogni tanto se ne incontri uno. Vabbè, speriamo che entrano gli altri duri. Fatta prima veniva un bel, oggi sono tutti ritirati. A periodo, anche su 10, vedi? Anche su 10 entrava quasi tutte le sere. Adesso invece, ogni tanto però, già si fanno sentire là, qualcuno. Recentemente hanno più cosa da fare. Dice che accendo e non c'è nessuno, allora con che... E con chi parla? Allora figli e spento, come facciamo noi so? Certe volte, perché di su noi spegniamo e ce ne andiamo. Fatto così, ma chissà, ci siamo così. Ma noi dovevo darsi sto trovando di voce. Ho innamorato, sto. Cosa ti sei innamorato e all'attesi questi che erano da gara. Sa, non si è fatto sentire, non si è fatto più vedere. Sì, ma ogni tanto veniva da questo fatto e si metteva a chiacchierare. Adesso lo zapparicio non lo vedo. Te l'hai già parato come c'è specialmente in questo periodo, cosa ci sei già parato travaglio l'altro che non si fa sentire, ma dai, te l'hai qualche sera non si fa sentire, no? Speriamo che sia così. Questo è un nome fatto, sì, con una gara. Avevo una gara, ho c'è ritirato e cominciare a sbattulare. E ringrazio già entrano ogni tanto, ogni moto di papà là, però a manco ogni tanto entrano e salutano e si raccappano, cosa vuoi fare sto? Sto finito che si interpreta ore e ore a tutte le ore che sta chiacchierando, sto finito che si ormai sto. Ormai aveva cose più interessanti da fare. Va bene. Quindi se a mezz'oretta vi rappremo, a voi. A voi di Araedo. Ecco, vi dico anch'io. No, anche se non c'è nessuno a certo punto, no. Acceso. Non c'è nessuno. Beh, sta acceso. O mi accendo la televisione, o mi accendo il computer. E faccio così dopo che mi sacco il conflitto, quindi se con tutto me ne vado in piscina e comincio da una cavina all'altra. Andare avanti, andiamo bene, siamo così, facciamo. Infatti, sono salita così a casa, allora, certo, poi se mi sarà decisi tra i due metri, dopo sono stato a colare. a preparare poi a mangiare un contrasto, alle 4 abbiamo pranzato. Non ti muovo, ci sto. Perché siamo usciti tardi dall'ospedale e poi siamo entrati dalla Conava a fare un po' di spesa e poi arrivare a casa a cucinare un po' dell'altro, alle 4 abbiamo mangiato. Certo, ma non c'era molto di fame. Non direi che c'era molta fame, non direi. Ma era già pronto, so, perché avevamo cucinato di notte lumaccoli, lumache con patate. È rimasto un po' e a pranzo l'abbiamo divorato. E ti porto bene. Ma la cucina vedi che va a fame. Per forza. Era già pronto, c'era, no? Non è che abbiamo andato a cucinare, abbiamo tagliato e ci abbiamo mangiato. Anche se le robe a cura. Tutti che tanto abbiamo fatto a mangiare il due, va. Tutti che va. Sto che scoppiè le cartelle stavo felici a celare, non ne voglia. Oh, ma come te ne dà la mia madre di lì? Andiamo a vedere. E lui a Cucciacca possiamo salire solo a pranzo, verso lui, insomma, la sera è difficile, capito? E per cui, io mia figlia è ricoverata, capito? Uh-huh. Vabbè. Purtroppo è così. È bellissimo. È fatta da lì come se niente. Per carità. Da voi fare, però dopo l'abbiamo fatto, si vede, congelato, e abbiamo fatto la domanda la stessa cosa, solo a pranzo possiamo salire, capito? Ma la sera non ci può salire, so. Se salite solo a pranzo, vuol dire che mangiate un po' tardi. Oh, già c'è la compagnia, sono tutte le colleghe ogni tanto scendono a visitare, perché perché era all'acquisto piano, adesso è ricoverato il secondo piano, e per cui ascendono ogni tanto, una domanda veniva, oggi veniva una domanda, allora due parati e salutarla là. Fate così, purtroppo. Va bene, ricordate che ne sta presto. Speriamo bene. Speriamo bene. Perché la doperanza è il continente. Sembrava che sta va bene, invece dopo. Si è aggravata e la doperanza di questa qua. Già sembra che sta andando bene. Vediamo un po' questa settimana. Break! Ma fateci un break! Buona tarda, mio hermano! E allora, come va? Mio hermano, però che ho cominciato, sono tutti già saliti. Vabbè, più che amici sono sempre, no? Buonasera, signor Gianni. Buonasera a lei, anche a Gian Maria, non so se ci sia altra gente perché è acceso in questo momento. Mi stavo appentando perché ho acquistato la macchina della mia figlia e la stavo tutta lavando, pulendo, facendo, ingillando, passando il nero l'uovo, insomma, l'ho fatta tutta luce. Guardate, ho fatto tanti saputi a far giro. Brava. Ehi, Tony, l'ho presa a seconda mano, quindi non te la mano pulita pulita. Non era sporca, però non era manco pulita pulita. E gli ho messo lucida per scorci, tutto qua, tutto qua, quindi quando viene la tua bella prova. E dove è lucidata? Andiamo, dove andiamo? E che macchina è? La Ypsilon. Ah, e non so quale macchina vi possono portare. Sì, ci sono donne che le macchine le fanno andare. Purtroppo, no, diciamo che le piacciono quelle macchine, l'Arancia Y gli piace, con la Peugeot. Nato, Gianni. Sì, mi domani. Ciao, sto chiedendo che se mio figlio è stato dalla corretta, è stato fatto la combattere facendo a gonfiaglia sul compressore. Già rientro il nostro, vai. Sì, già radio, vai. Vediamo che non c'è un cazzo. Va. Perché c'ho 3 o 4 apparecchi attaccati, c'ho 3 o 4 apparecchi attaccati per scaldare, perché sono un po' fermi, li ho attaccati diversi canali, capito? Però vabbè, un po' di rumore l'ho parato. Buonasera, buonasera anche a te, signor Marino. Oh Giulia, andiamo a vendere. Avanti. Ma a chi? Due ragazzi? È entrato nel negozio, non so cosa ne dice, forse si è filmato a mangiare, ma lo chiedo ogni giorno. E lui non era gente, non era gente. E lui era, avanti Gianni. Sì, allora vai. Con che apparecchio sto uscendo adesso, non ci me lo pimpare. C'è per tutto. Capo, già capito. Per il corretto, la qualità. Sì, yeah. Andare, arriva bene comunque, bello pimpante, la voce quella presente, ottimo per la truffa. Sì, è bella la tua la tua stella. Allora, tutto vicino, la peggiore è una cosa, ma per il cielo non c'è un blocco, dice normale, allora. Vuol dire, non mi ripendo, l'ho attaccata, quando benissimo, anno. E no, con questo esco di più. Che la peggiore è una cosa, una sabbanda, che il miracolo, per strano, non c'è un dibattito. Ma tu non so se c'è qualcuno che ha trovato cosa, va bene, io ci sono il mare, non è male, io sono già qua, non è male, non è male, l'ho detto anche io l'altro giorno, sì, era il microfono, che ne so, comunque l'altro giorno era basso davvero, è vero, non ero abituato a sentirlo così basso attorno, e vabbè, adesso c'è la terrata, guarda. Si è rovinato e poi l'ho fatto aggiustare, adesso va benissimo, sì, una volta che ha cambiato i finali che erano partiti. Questo C'è 100 volte che non posso vedere che sta vivo. Un braccio tutto alto. Facendo bene tutti e due, quindi a voglia stanno in movimento. Spero che sia sempre innamorato del gara. Giovanni, grazie per aver fatto. Ma come ciao, è lo spaventamento. E il parcheggio delle Quicce con lo spiato di traversa bianca dove andavo io a fare il VX. Da lì ho fatto il VX con l'Inghilterra e la avanti. E lì ha detto che, e che praticamente gli sono passati ciglia e a fianco. Fai che c'era bisogno di dare un letto. Bisogna andare a faccia di cinghiale, bisogna andare. Questi cinghiali correndo, salendo da via Barbenda, però dalla parte di Montevurro, da lì. Stavano salendo da lì e sono saliti via Bologna. Hanno fatto quel pezzo di prato che c'è, sono saliti su, sono andati verso sopra. Erano le 9. Praticamente c'erano il padre, la madre e gli altri cinghialetti. Non macchina. Ecco, questo come arrivo, sono con il Royce adesso. Non è forte. Sì, è forte, però se non c'è un po' la vita. Ripeto, se non c'è la mia parete, io ti sono giù. Allora ti dici la vita. Sì, allora. E così è, purtroppo. Ma va bene, te la prendiamo con il terreno. Allora, signor Gianni, con chi ci sei scelto? Non apro una giambata. Ma poi da va, come ti anda, brutto? Meglio qua la modulazione. Tutti mi dicono di abbassarlo, che è troppo forte. Boh, io non so più cosa va. Si abbassa, mi dici che abbassa, se... Boh. Allora, questo, ma non è solo di bella chiara. Non credo che ti vedo che mi immagino. E questo è lui se, con il coso, con la static, è un microfono che costa 70 euro, dicevo. Però a me non è mai piaciuto perché c'è sempre a musi acuti. E al telefono? Anche il telefono? Sì, stavo ascoltando quest'altro, ma fa molto. Posso andare di meno uno che lei. Stava aggiustando morto mentre riparava un camion. Mi compresi? Mi sono arrivato vicino a Ciro, Tore, guarda, sono a dolore alla gamba, non riesco più a muovermi dai dolori che ho. Ma dolori, mi prende la sciatica, mi tira tutto il nervo sciatico, caso mi vengono questi crampi, questi dolori fortissimi da morire. Cosa brutta, perché tu così fai quando c'è dolori? Allora. Vabbè, mi pare che la quando sono arrivati sui vaccini ho sentito un becco dolore alla gamba così, all'ervo sciattico. Io ho fatto iniezioni, ho messo pomate, di tutti di più, niente da fare. Se ce l'ho me lo tengo questo dolore. E che ne ho fatto, guarda, due di volta le due di muscoli di scatole. In più ho messo pomate scaldanti, ho messo il balsamo cavallo che qua non si trova, bisogna ordinarlo dal continente. Balsamo cavallo che me l'aveva consigliato un amico con cui chatto, mi ha detto che lui gli ha fatto benissimo, a me non mi va venuto. E io l'ho preso da poco, e l'ho pagato perché non te lo passa manco la mutua. Il Tovra dicono che è buono, a me manco quello mi hanno fatto bene, se te la giudici la giuvace, non mi hanno fatto tutta. A me c'è questo medicinale, sta sottone, scusami. Fa due bene che fa due male. Sì, fanno bene una cosa, fanno male allo stomaco, i reni, eccetera. Il mio dottore mi ha detto che lui dalla sua vita gli antidolorifici li ha proprio eliminati. E se avessi avuto i dolori io, non avrebbe parlato così. Io sto cercando qualche bella donna giovane per farmi i massaggi, ma ancora non ne ho trovato. Deve essere un messaggio più grande, è nato grande, così, è una cosa carina. Dice che le cinesi sono più brave, che fanno massaggio con regalino. Sì, me l'ha detto, quello che c'è su chiusi, che si mette su chiusi per succhiare. Me l'ha detto. Mi sa che glielo dico di venire a provare, se mi ha detto che miracoli non è fa, che ci passano per un paio di mesi e poi ci rivengo. Ma di capire se è ma di fatto la questione si fa il valore. Quindi la prima era una cosa che quando chiede sta a fare un di questa roba qua quindi la cosa sta a fare un di questa roba qua e io però la cosa è che una cosa che vuole, capito? Vedi che lo sa, lo dici, vedi, chi lo sa lo dice, la sigla della crucca che l'ha provato. Ciao, perché si è fatto bene sul giorno, oh Giulia. Adesso mi per Natale lo chiamo, glielo dico, perché sono invitato, non ci voglio andare, i miei figli vogliono che vada, e io non ce la faccio con questi dolori, non sono più di compagnia, capito? Cosa ci vado a fare? A sdraiarmi nel letto. Io io riprendo e mi devo obbligare i bacini, ci risentiamo alle prossime. Ciao Gianni, ciao Marino e ciao Bruno, ci risentiamo alle prossime, a risentirci, ciao a tutti. Ciao Antonio, ciao, stavo bene, dai, buon proseguimento. Avanti Bruno, ma mi dico, l'ho visto anche io, l'ho fatto l'intervento, l'ho fatto al Ghero, guarda, me l'hanno fatto benissimo. Però spero c'è la punta allora, adesso non c'è più. Ma io sino a quest'estate ero un grillo camminato, capito? Tranquillo. Sono andato a vedere tutti i concerti che hanno fatto, adesso volevo vedere Gianna Nannini, che è una delle mie cantanti preferite, non posso andare perché se prendo umidità mi vengono i dolori fortissimi. Non posso prendere umidità. Sì, i dolori che ce li ha si ritiene. Bisogna che faccia qualcosa perché io le ho provate tutte adesso. Bisogna che vada o da un coso da psichiatra, oppure che lo dica quella persona. Voglio provare a vedere se, perché lo sto provando in ufficio, ci sono buttato benissimo di medicina, credi, con belli soldi. Ho preso una pomata 50 ml e l'ho pagata 26 euro, mi dura 3 giorni. E allora io riprendo e vi saluto, perché devo portare giù il cane adesso e mi sta guardando come dire io lo andiamo. È intelligente, guarda, l'orario proprio, l'orario in testa, cioè, come arriva l'orario, io subito mi chiama, a meno che abbia più necessità prima, allora me lo fa prima, la bimbola. Va bene, dai, mi ha fatto piacere sentirvi tutti, fatevi sentire spesso, perché almeno ci facciamo una bella chiacchierata. Adesso ho rispolverato Luis, l'ho fatto andare anche stasera, che era da un po' che non lo facevo funzionare, tutto va per il meglio a quanto sembra, e sono contento così. Dai, buona serata, buona continuazione a tutti, grazie per il questo. Ciao a tutti.